qua e poi mi inizio. Oggi con questo caldo a casa non si vede. Mi do io, mi sono passato dove è morto il figlio di Tolia, tutto quello che ancora mai. Sì, non è governata, Gianni, se ti ricordi, dove c'era sia Sassari, già se non lo vedi, non ho problemi, non mi chiedo per mille motivi, capito? Spero che un raggio di apertura a 45 gradi, invece essendo un po' più all'interno, mi attacco dall'altro lato sempre della mia, della stessa, il palato che c'è all'interno del coso, dell'altra macchina, ce l'ho proprio davanti, è la stessa altezza, quindi il radio è un pochino più bassa, mentre in quel lato lì era aperta e c'è tutti e quattro lati liberi, quella sollevo la porta olimpica adesso, anche perché mi serve per i 10 metri, quindi mi sto preparando per fare un po' di attività anche in 10 metri. E su quella lì metto la porta, ho preso una GP6 da Raymond, si manda e la metto lì, che più o meno come la mando, la solo che c'è il radiale anche dentro dello stivo centrale, capito, con le cariche. Sì, tutte lì. E no, ci siamo facendo poveri da mano perché è un gatto, capito. Mi interessa mantenere il tubo perché con la spalla non è che posso fare molta forza, una volta che il tubo è innestato, me lo posso fare da solo, non ci sono problemi. Sì, non ci sono problemi, quello è la fesseria. E che ci vuole un po' di forza per mettere il tubo dentro le tappe, perché sono le tappe particolari. Il tubo è abbastanza pesante, è tubo pieno e quindi bisogna che ci sia almeno un po' di persona a darmi una mano, capito? Sono 30 watt, 40 watt, non c'è problema, te l'ho detto, c'è un medico di operazione, tu hai detto di no, ma c'è un medico di operazione, capito? C'è molta propagazione, e sta ancora salendo perché il problema è molto alto. E infatti siamo a stare crescendo, vabbè, abbiamo ancora 4 watt in più, mettiamo 40 watt. Se aumenta un po' la propagazione mi senti meglio, dai. Aumentare ancora? Guarda a vedere adesso, 100 watt di questi non posso aumentare già. Ehi, ehi, no, non ci sono problemi, no, io ti ascolto, ma te l'ho detto che se stai a bassa potenza è difficile perché c'è una propagazione digitale, cioè, sentiero 9-10 a volte arrivano dei picchi di modulazione, quindi conviene dare qualche watt in più, sto messo a 100 watt pieni modulati, quindi dovresti ascoltarmi bene, dai. Non lo so, dopo la partita credo che qualcuno già esca, non lo so, ma tu non c'hai ospiti, non ti andano a prendere ospiti? Quindi c'è una roba io porto adesso. Ah, che ho pagato. Non so già, io qua sto mio, non c'è problema. Se vogliamo un snitch per fare una sigaretta, per me non c'è problema. Capito? Tanto ormai io devo fare molte cose domani. E immagino la impressione che è tosta, È tosta già, è tosta perché hanno fatto quelle azioni dei tiri inglesi micidiali, capito? Mamma mia, gli ultra inglesi sono micidiali, quindi veramente bisogna stare molto attenti. E beh, quella lì è già pronta, c'è il tunnel sotto da sistemare e basta. È già pronta, però chiedo a quanto momento Massimiliano che abbiano fermato i lavori perché non c'è via, capito? Non c'è via. arrivato? Che poi la scrittura uguale alla Ma l'ha aperto, quello che aveva fatto per lui. dato la propria c'è il pieno. segni, o cla. Ah, Claudio. E tu è, io ho 11 e mezza, ma non avevo buchi. Devo andare a mio, come si dice, non voglio mai, alla prima me devo andare, che è fotografia. Se per me, sono io a tomare un quarto. Devo fare il documento per il coso, per la fisioterapia. Ci vediamo lì. Io. Sì, sono prima, tanto vado presto, è morto a mezzo alle balle. Così tutta la documentazione, aspetta tutta pronta. Io adesso vedo se riesco a farmi andare alla bandiera a fare fisioterapia, perché è un amico di famiglia. E così sta a posto. Per qua si è cercato, non mi fido. E K. Bomboli! Bomboli! Vabbè, come hai detto tu, la Germania è tosta. altro poco corrono, cazzo, maledetti, cazzo. E poi che cazzo, non ho il fiato, non le mancano quelli lì, cazzo, maledetti. Stavo guardando a tagliare uno il film di coso. Gris. Sara, sono qua. Gianni, dove sei? È venuto da Biocco. Ma è vecchio, si dice. Cazzo, allora vuol dire, ragazzi, undicesimo, mica undicesimo, arrivare primo. Stava tirando, cazzo, come un demonio, beh. Beh, gente mara. Grazie a Rosso, c'è anche a Antonio, Leoncino forse, se non si ritrova. Hai ricevuto un messaggio che siamo sui 14, l'email hai ricevuto? No, io li sto sempre controllando, se le avessi ricopiate bene. Vai, di la verità, hai ricevuto un messaggio, che abbiamo fatto tornei nel 14. Ragazzi, vedi che la mandano i miei. Io sono sempre l'ascolto, vi ascolto sempre per se vi comportate bene. Sì, certo, va bene. Più buone di noi che ci comporta. A noi ci comportiamo bene quando non ci fracassiamo le balle. Tu, è poco, ragazzi. Avanti a tu. Vamo lì. Via, cappa. Stiamo andando in un posto, dai. Ha fatto una gaggata, ovviamente. Diversamente. È la fatica. È la fatica a doglia, e poi ti seguo. E poi la accogli. Ah, vai, è girato da manico di baracqua. Ma arrivi. Dì che verrai vicinessa. Per dire, c'è una cosa, capito? Quello ci arriva. Forse ci arriva la tua. Fa andare, se non si fisce addosso il bombolino. Ciao, c'è! Fate brave. Oh, corvo! Allora. Sto scherzando, Fabio. Ritorno, sono bene già per poco. E tu mi hai rimaniato a brutto perché me ne muori carri. Buonasera comunque. Buonasera, Don Fanchetto, buonasera. Buonasera anche a lì. Don Fanchetto. Buonasera. Molto superiore, si chiudono troppo, perdono il pugno grosso, ma dice che segnale sicuramente. KK, avanti Giuseppe. Comunque l'Inghilterra di adesso, all'Inghilterra quando stava allenando Fabio Capello è tutta quanta diversa, era tutta diversa. L'Inghilterra era il 77 che ho vinto con l'Italia, me lo capisce, ma non ho mai vinto con l'Italia. Quindi questo è a dimostrarsi che non è una squadra fortissima da non poter battere. È una squadra che ha una buonissima difesa, ma sono molto lenti perché sono giocatori di una certa età anche loro, quindi sicuramente è percorso. Ma l'importante è il momento di rigore, la buona che ha toccato noi. Vai Falco. Vedi così, però anche l'arbitraggio era troppo lento, segnalino, se ne parla. Stavo diventando una partita proprio. Sì, hanno giocato bene perché come possesso palla abbiamo avuto più noi che loro, però torno al discorso 2, si chiudevano troppo in difesa e facevano il muro a sotto. Perché hanno quella differenza, capito? Hanno quella differenza, tu consideri che Ballottelli ha giocato in Inghilterra, quindi noi ce ne abbiamo fatto il ruolo portiere, mi conosce tutti quelli che stavano giocando. Perciò già hai un ex compagno all'attacco, sai come si muove, sai che condizioni tattiche di gioco c'ha, è chiaro che lo marchi stretto. Perché Ballottelli ha giocato molto meglio con la partita contro la, come cazzo si chiama, che ha fatto quel bellissimo gol di rovesciata che adesso, perché aveva più spazio. È positivo. Bene, avanti Fabrizio. Via, andare là. Vabbè, comunque secondo me una finalista, una delle finaliste è la Spagna quella che gioca meglio, indiscusso, perché ha un gioco mostruoso fino al 90esimo e segna i gol. Ciao, mi ha incuriosito molto Pirlo che ha fatto il gol alla Totti, a cucchiaio. Poi ha fatto un bellissimo gol perché di solito che il portiere rimane, si sposta, è a sinistra, lui ha fatto il gioco, un gol e quello si è preso per il culo perché cazzo non si aspettava nessuno in questi momenti di fare una cosa del genere. No, prima l'aveva detto lo faceva lui, proprio a cucchiaio l'ha fatto, come faceva tutti. Perché un giocatore che c'è esperienza, un giocatore che è sicuro di sé, sul calcio la fermo, io penso che a livello di Pirlo in campionato italiano, di europeo non ce ne sia uno come regista e uno come grande tiratore da calcio piazzato, quindi era sicuro di sé, capito? Ma vabbè, tutti fermi, vedi che il portiere già attore a cazzo di avanti retro tranquillamente. Lo sto intervistando, a me piace molto come gioca, cazzo mi ha tiro, cazzo, no, qui c'è Daniele De Rossi. Hai visto il che pratica di gioco che c'è, nel senso che è molto sicuro quando la palla al piede, quindi non ho paura, Mi entusiasma molto la verità, ma molto bello. Fatto un campionato strepitoso con la Juve, Pirlo, veramente strepitoso, ma anche oggi ha dimostrato di essere sempre lui, pacato, tranquillo in campo, senza essere aggressivo, senza essere proprio a un'educazione sportiva che penso nessun giocatore ce l'abbia. Ma fai girare a là, chi c'è altro? C'è Giuseppe, Falchetto, Fabrizio, vai, dite qualcosa, parlate anche voi, se non avete sonno andate con i calci. No, ma io sono pienamente d'accordo con te, perché Pirlo è signore. A pallone, a piede, va tranquillo che pochi giocatori riuscivano a prendere il pallone a Pirlo. A pallone, a piede, un rino, però è un signore giocatore. suo gioco, cerca di manovrare la situazione anche perché è un regista e quindi tutti i registi a quei livelli hanno quella calma perché devono comandare il gioco. Infatti tutte le azioni partono dal suo piede, non venuto da là. Ma Fabrizio, Cosa sta usando? Palacchino oppure il grande sta usando? Sono Fabrizio, mi attante di radio, non so manco che cazzo sta usando, meglio il tuo dove? Capri. Dimmi cos'è questa pelle? C'è la radio un po'. Abituato a sentirti normale, capito, con il grande, a sentirti con questa, sembra che c'è la radio un po' occupa, capito? Vabbè, come, guarda ragazzo, si va bene, si va meglio, dimmi la vero, non lo so, confermi tra, vero? Dice, io sono abituato a sentirlo così a Fabrizio, sto usando una radio come la mia, con il microfono normale, quindi non è che puoi pretendere grandi cose, capito? Io sono abituato a sentirlo sempre così, magari tu con quella che stai usando adesso cambia un po' la modulazione, te la cringe, ma io sono abituato a sentirlo così perché sto ricevendo con la radio uguale alla sua, capito? Tanto tu come lo senti, Falchetto? Thank you. per parlare un fisco e gli ascolti sempre cazzo ti hanno insegnato, però a me piace parlarci, discutere, fare prove, insomma, no, a me piace, ma anche ascoltarlo. Toccarda, che è un amico di un mio amico che la fa fare la valigia. era mio amico e ti faceva vedere una cosa che ti sei appassionato. La prima faceva, aveva 5-13 come quello del tuo collega, ma non di 30 metri, di 60 metri, con direttive che non vada, mi sono spaventato, però alla villa con 4 metri di terra attorno, infatti mi sono, mi sono spaventato. E quelli sono così. Io lo conosco via radio, capito? Conosco via radio sia a Quarmenne che a Giova, ma certo, metto quattro rematori, se no è una cosa pazzesca, capito? Ma non pensare che in Sardegna non abbiamo, se sono nell'aria in 40, in 20, in 40 e anche in 10, Marco con Walter e Bernie Matambo di ieri. Uno per l'altro lavorano con 5 kW, capito? Non è che hanno grandi difficoltà. E in questo momento Marco ha un po' di problemi sulle antenne, deve ancora mettere a posto qualcosa, ma se no penso che loro due in Sardegna siano quelli che un po' più forti, non so che ci sia all'interno del campirano, medio campirano, ma comunque penso che loro siano sottovalutati e sia quello più avanzato di tutti come prestazioni, sia di Vlade che di antenne, che Vlade c'ha un'altra bina che costa 10.000 euro a 20 metri d'altezza, ma è cazzo buccia d'arancio. Ma ti ripeto, è tutto dipende dai soldi che hai. Hai la passione di là e allora ti permette di giocare tale cosa. E poi quando fai questo in grande, giustamente ti riesce lontano dal condominio, roba del genere. Aspetta a campagna, fai il cazzo che vuoi, se c'hai i soldi a disposizione fai sempre il meglio. Metti tarici, torri, con piantiere senza limite di spesa. Capito? Allora coltivi bene la tua passione. Dunque, io ti ripeto, non investimenti di quel genere non li voglio fare, perché non ho problemi, non ho bisogno di tradizio, non ho bisogno di niente, quello che mi dice sempre l'altro, a me basta una tre elementi col kit dei 40, fai 15, 10, 15 e 20 con il kit dei 40, che è una direttiva normale con un gun, quanto sarà? 5 metri, 6 metri, con la staffa direttamente a muro, attesa anche a muro, quindi un tubo da 3-4 pollici, cosa cazzo devi sollevare Fabio, io sono libero, l'antenna gira 45 gradi, cioè 360 gradi, no? Non ci sono problemi, ma non ne vedo la cosa, capito, l'uso non mi interessa, io l'antenna rotativo e 48 metri e da una parte all'altra del palazzo è abbastanza alta e sta rispondendo bene, benissimo, sia in 10, in 15, 20 e 40. Ho un bitolo di 80 che lo posso montare, ma tocca rifare un'altra calata e sono anche il pentolo di Gavo. Io ho preso l'H110, non so se lo conosci, che mi è costato 200 euro, capito, non passa da 100 metri, 200 euro. Non è che tu cavo LG58, ma per fare queste cose. Infatti adesso in settimana, se viene Massimiliano a darmi una mano, allungo il cavo e metto la verticale 5 bande e la manto me la sposto sull'autostrada. Capito? Però ci vogliono un sacco di soldi, perché a me mi ci vogliono 40 metri di calata. Quindi ho preso due canonate a 100 per fare due calate da 40, ma basta, cazzo, non spendo più niente. E l'H110 è meglio dell'H100 che ce l'ho già, ha una schermatura più grossa, il centrale è in rame duro, rigido, non è a filamento arricciato come l'H100, ha una perdita molto molto bassa, però ce l'ha, però capire di calcolare la lunghezza del cavo Fabri, quindi ci vogliono troppi soldi e non ho nessuna intenzione di continuare a investire in queste cose, che va bene così e basta. Oh, eccomi qua, sono ritornato. Ma quando ti arriva coso? Ciò chi? Fabrizio. Prova Fabrizio. né per la ricezione né per la trasmissione. No, perché sono libere. Non abbiamo grossi problemi su di quello, anche con piccola cosa. Tutto io sono in auto, quindi che prende il pieno, non ho difficoltà a ascoltarti. Altra gente magari che ascolta più basso. Ok. Mi pari tu un marchetto. Cado medio. 32. Che ho fatto? No, non ci sono grosse difficoltà, no. E che non faccio antenna, se no sei arrivato fortissimo da qua. Perché è tutto libero, no, non c'è niente. Sono zone molto molto aperte, non hanno nessun, non è come dentro Sassari che puoi trovare mille, cioè mettendo antenne così basse, così piccole puoi trovare mille difficoltà, qua dove è così. E basta, va e basta. Quella antenna che hai messo in deposito con la Storm, come cazzo si chiama, ma quella lì non è meglio di quella che stai usando tu adesso? Oh, non la posso mettere qua. La puoi mettere, cazzo, non manco qui, se non metto l'antenna, non si può più manco qui. Poi cerchiamo la tendine, il coso va a stendere lì una faccettina che non si può mettere. No, già ce l'avevo, ce l'avevo, però lo devo mettere dall'altra parte, lo devo mettere, io sono rotto le palle, perché chissà di sopra mi sentiva il telefono, hai capito? Ma secondo me va bene anche dove c'è quella lì, tu. Anche dove c'è quella, secondo me va bene. Quanta fettina, mi do le misure, te la faccio fare in officina, bene, in acciaio, si aggancia dove c'è il coso da prendere e si mette lì. Secondo me guadagni molto di più. Che pena c'è tu, Fabri, sempre hai guardato di poco? Ehi, la ragia, sempre quello lì. Ma tu l'hai fatto? Sì, però questo non è tra 27, va a 10, a 10, scusa, 10, 40 e 20 metri. 10,40 e 20 un metodo trattato, qual è quello dell'ECO? No, no, l'ha fatto un amico, è una cosa autocostruita, non l'ho comprata, capito, da bene. E qua mi va bene così, non mi piace ascoltare, basta, poi ieri, ancora, ieri, cioè, ieri, cosa fa? Questo pomeriggio la fa, c'è la spana, ecco, era quello benissimo, bravo, tutto l'ultimo, contento, bell'uno. Perché è riportato verso il mare? Ah, ho capito, ho capito. No, ma è anche il mio, questo era di Marco. Di Marco, chi lo trovo bravo. Questo ce l'ho l'altro, dice all'altro. Era 10, 15, 20 e 40, lui invece l'ha fatto uguale a questo, a Bandante era solo per i 40 metri. Che ne 3 chilometri di questo di ho fatto il conto. Ho fatto un carro da 8 mm, tutto reggi 213, tutti i maniglioni e d'accordo, tutti in acciaio oscillabile, c'è un baron micidiale, 3 kW tiene, lo usava lui con l'amplificatore, quindi non ho problemi per questa antenna, solo che è un bel grande, quindi l'unico che poteva piazzarlo ero io, infatti devo ancora sollevarla perché ha un palo da una parte e un palo dall'altra del palazzo. Ed è a 2,50 metri da terra, devo tirarla su anche quella, ma ci vuole un sacco di forza. Non gli avevo messo le carrucole, adesso quando la abbasso le metto le carrucole e quindi la posso tirare su da solo, capite? Però così senza carrucola non ce la faccio. E adesso già ne ho tempo, c'è un altro mese a casa, quindi piano piano inizio a fare la fisioterapia. Come inizio a far bene me ne vado sul petto la mattina, a petto nudo e pantaloncini. È andato a farmi i lavori, spostamenti di antenne, avevo piazzato la GPC, ho preso Fabri, quello con la Raimo, la 6 balle, ho piazzato quella dove c'è la manta me la metto proprio la prima, ti ricordi, sulla tua strada. Sì, sì, se poi tu in alto, non hai problema di mettere fare un altro altro, sei già alto da terra, quella che è buona, magari avrai problemi. Aspetta, lo vedi prima, quella di Guglia, quella zona lì, difficile da lì arrivare più basso. Lo so, ma quando la atmosfera avevo un'ottima ricezione, anche perché era molto aperto, essendo l'ultimo palazzo all'angolo lì della di Via Pascoli, proprio dove c'è il poso, lo stadio dei Pini, vabbè, adesso mi è venuto a Massimiliano davanti, ma ce l'avevo, prima ce l'avevo lo stesso, eravamo vicini lo stesso, però lì è una buona zona. Lavoravo molto bene, soprattutto in UHF, ma anche qua mi arrivavo in diretta la Liguria, quindi non ho problemi. Solo devo tirare su, devo tirare su anche la Raimond, che è 2 metri, c'è un elemento solo. Devo comprare un altro palo, tirare su almeno di altri 2 elementi, perché è molto bassa. Allungare il cavo anche lì, capone ho da fare di cose, un bene ho da fare, in modo che sia tutto a posto. Ci ho capi da sostituire perché sono già vecchi e cazzo, ma avevo un capitale, Fabri, ti sto dicendo, ho pagato, allora la K100 l'avevo pagato, la matassa da 100 metri 150 euro, la matassa da 100 metri, la K110 che è l'ultimo che hanno fatto l'ho pagato 220 euro, 200 euro più 20 di trasporto, quindi immagino le due, ci vuole un capitale, cazzo. Se vuoi uscire bene devi avere i cavi grossi, devi avere i cavi buoni, anche per gli amplificatori, per la ricezione, per tutto. Però ci vuole un capitale, capito? Non si può comprare 200 euro di cavo, ti esce una radio, capito Fabi? Perché ho detto basta, boh, finito, adesso mi metto questo cavo, faccio 22 carate, metto tutto bene a posto, chiudo nuovamente il pluviale, boh, non tocco più un cazzo, non ho finito. Quindi c'ha 6 bobine, una per ogni banda, e devi accordare. minimo minimo, in modo che l'accordatore automatico della radio poi non ti crei problemi, perché se non è accordata sopra, l'accordatore non ce la fa a farle scendere, capito? Quindi va tarata misura per misura, i radiali sono tutti a misura, banda per banda, capito? Ogni tubo c'ha i suoi radiali, se tu li vedi, quando la vedi montata, mi dici, cazzo, cosa che abbiamo bagno? Ogni metro c'ha tre radialini, ogni metro c'ha tre radialini per 6 metri, capito? 6 bande, 6 metri, ogni banda c'ha i suoi radialini e la sua bobina. E poi sotto, al piano di massa, c'ha 6 radiali lunghi, 1,50 m, tutti non ci vengono oscillanti. Ciao, dai. Dai, io devo chiudere. Devo chiudere perché è già tardi qua. Buonanotte, ce la risentiamo anche Fabrizio. Cappa, la puoi usare anche di dai, non c'è problema. Ok, buonanotte a tutti, dai. Devo chiudere, ciao ciao. Ciao ciao, ci aggiorniamo domani, avanti Fabri. Ehi, ciao Antonio, buonanotte, fare bene, sei a bravo. Ciao, ciao. Sì, l'ho vista, sono rivista, e poi su internet, nei vari siti. Ma poi sono stato arrivato e non ne parlano bene. È un tema un po' particolare, ma rispetto agli altri verticali lavora molto bene. Ma a me mi serve più che altro per i simmetri, anche se l'antenna dei simmetri c'è un decoro che mi ha fatto Antonio e Bio. Fortissimo, ce l'ho davanti all'altra, ma ho girato il mondo con quel tipo di simmetri. Qui essendo in alto nella reazione un lobo fortissimo. Infatti molti mi dicono sempre che andate usando i simmetri e non ci credono mai perché ho degli ultimi segnali. Ma adesso che ci daranno anche 70 metri, quindi i 7 mega. Vediamo un po' di organizzare anche qualche altra antenna lì, ma certo, ogni volta, antenne radio, quindi adesso ti immaginati, dobbiamo cambiare di nuovo la radio, quindi a parte 50 mega dobbiamo prendere anche i 70 e quindi usciranno la radio con i 70 mega, altre spese, ma va fanculo, cazzo se fai appresso a questo hobby ci vorrei uno stipendio, eh. Se non c'è il cratere acceso, che cazzo fai? Devi stare lì a aspettare, ma se ho bisogno. quando in 40 metri direttamente la bomba era un romano, di non so se altro, come era della dell'Umbria, Umbria si vedeva la strategia, ma stiamo provando, era questa bomba, dove questa c'era quella lì, e di questi più altri ne avevano, le promuovavano per fare prove, e loro sostenevano anche la molto molto buona. Tanto per che le vie di chiave si trovi corrispondente del direttivo approccio al Mercurio, capito? La monta in 10 metri, sono a proiezione orizzontale col dittavo che ciò, perché fa 10, 15, 20 e 40, segnale se lui è in verticale sono costretto a commutare sulla Mantova e quindi lo riceve molto meglio, lui riceve molto meglio. Se no sei lì, perché lo sai meglio di me, no? Se si ha proiezione verticale o una proiezione orizzontale, il segnale cambia. Hai anche a volte difficoltà, secondo i corrispondenti, a parlarci. Se invece sei con la stessa proiezione, allora è diverso. Però oramai stiamo puntando tutti, soprattutto per i 10 metri sulle verticali, infatti quasi tutte le animature hanno la mantova sempre più fatta, perché l'unica antenna che in 10 metri dà le ottime soddisfazioni. Può andare anche con un po' di latte, quindi ho il verticale 10 metri, c'è l'amplificatore apposito per i 10 metri, che poi lo uso anche in 11, quello grosso, però con la mantova va molto meglio rispetto alla posizione orizzontale. La posizione orizzontale è l'onfia, sono sì rotativo, che punti sopra, allora non hai problemi. Ma senza rotore che c'è la polarizzazione fissa, e poi tra l'altro quel tipo che ho io è a quattro lobi di radiazione, capito? Quindi per come me sono orizzontale, ma lavora sia avanti, indietro e sui due lati, perché è fatto apposta, e a scaletta, capito? E a tubi di polietilene fatto a scaletta sui quattro lati. Sì, ho capito. Ma non è male, se diversa polizia, è il problema, sicuramente. Qua sono sempre quelle di avere la stessa polizia. E quindi sono la direttiva, non faccio la gara, era per me, è perché la direttiva è fissa. E tu magari quello che lo ricevi da dietro, ma lo senti. Infatti io la direttiva non voglio metterci, ce l'ho puntata a nord, che è il punto dove arriva sempre lo sporadico, soprattutto i due metri. E il corruttore che anche se ne sta vedendo, capito? Perché è pronto, gira, ma non c'è il cavo. Non c'è il cavo, e quindi devo fare la calata per poterlo far andare, poterlo far girare. L'avevo comprato da 2,5, però non andava bene perché non era schermato, e quindi Marco non è potuto montarlo, la sua Antonella ha preso quello schermato bipolare, allora è già pronto, ne ho preso 50 metri, tutto ok, il controbox è già pronto, è qua, devo solo collegare i fili al controbox e i fili su all'attore, basta, e poi anche lì sta girando, adesso un lato va anche bene lì da voi perché gira benissimo, non ha problemi, però cazzo non lo tuo ai coglioni, anche quello. Troppi di navi buoni va lì, troppi di navi, troppi soldi. Per gli animatori è un grande sacrificio, cioè io vabbè, forse sono l'unico che non ha speso grandi cifre, perché se mettermi a spendere devo ancora mettere direttive, come ti ho detto, devo fare dei lavori sul tetto. Radio già ne ho, ma dovrei acquistarne un'altra. Quindi cazzo diventa una cosa troppo triste, non va bene, e quindi mi accontento di quello che ho e lavoro come posso andare, vuoi che non ho problemi, ho 100 watt, i due gemellini della ICOM, 271 e 471, poi ho il 780, lo stesso bibanda base, da 100 watt, dove c'è un amplificatore VHF, come KF non ho problemi lo stesso, se va bene in Q, lavoro così fa prima e cazzo uno dopo di me. Sempre spendere, benissimo, grande quanto il lotte 50. Abbiamo fatto un cambio. Poi un 140 che era praticamente un problema, Fabrizio l'ha messo a posto, l'ho regalato a Mauro e io mi sono tenuto un 440 e un 140, faccio una linea semicompleta, due linee semicomplete e va bene così, uno ce l'ho 10 metri, uno ce l'ho 27, poi tutti i baracchini vanno che servono per la 27. Ma già va bene, dai. Mi devo preoccupare più di montare antenne, che mi interessano più, perché non te le radio Fabio sei meglio di me e poi non arrivo da nessuna parte. Per uscire bene ci vogliono le antenne, io ancora sono molto molto indietro. Ma se ho perso questa GP6, se volevo la Diamond, la verticale della 27 me la monto dov'era, giusto per fare due chiacchiere in città e non. E va bene così, ragazzi, me la tutta la volta più indietro di me. Come con la vecchia, no? Se c'è 100 euro spendi 80 per le antenne. In realtà Fabrizio, se non mi tu non sei un po' più del, quindi lo sai com'è, non funziona, ma è normale, basta un HF di piccola generazione, anche di vecchia era, anche se non è completo, se non hai simmetri, se non hai insomma tutti i filtri, tutti i quattro mazzi, però avere una buona antenna da poter trovare ottime soddisfazioni. Io ti ripeto, io proprio io non me ne fregava niente, avevo una G5 RV che poi mi ha regalato a Vannino, che faceva 10, 15, 20 e 40, sempre autocostruita, c'è un nome G5 RV perché porta il nome di chi l'ha praticamente progettata, che è un grande attore della provincia di Milano, e andavo benino insomma. Poi Marco mi ha detto, ma cazzo, mi hai rotto le palle, vabbè, quando smonto l'antenna c'ho io te la rotto, e poi mi ha detto, non potevo montarla, come sono arrivato qua, l'ho montata, per la realtà è quella, ho migliorato al 200%, segnali da 9, 9,5 e 9,10 sono passati tutti a 9,20, 9,30, solo ricezione in trasmissione, ho acquistato tantissimo, perché giustamente come dici tu l'antenna è più valida di quella che avevo, quindi il problema è sempre quello, avere 100 euro spendono 80 per le antenne e 20 per una radio, capito? Ma ecco, se l'ho conosciuto un ragazzo due anni fa, è un campeggio da Santiago, sono ricco, comunque lavoro ricco, un paesino vicino a ricco, mi ha detto, guarda, mi ha fatto delle fotografie, io da regolatore ho 40 anni a partenza, ti posso garantire che non ho mai comprato, ha comprato solo una radio, ma se ricordi, aspetta, l'FT, l'8, no, il 747, i primi, te lo ricordi? Allora, il 747 l'ho avuto io, che praticamente era quello di plastica, no? Anziché quella carica senza, c'era di plastica, perché poi dal 747 è nato il 757, che l'ho avuto lo stesso, e poi il 757 GX2, così è. Esatto, questo qua c'è l'erba, e c'è tuttora, c'è fuori, per comprato qua, adesso io non ho mai comprato altre radio, capito? Però mi ha fatto le fotografie, nel suo giardino possiede 4 tralicci con antenne stratosferiche, di cui le antenne possiede lui, adesso io ti faccio vedere tanti di quei collegamenti che ho fatto, tanti di quei campi, su molti degli amatori che hanno speso centinaia e migliaia di euro, non se li sogna. Sono d'accordo con te, capito? Io prima non sono venuto qua, avevo sì qualche antenna per il cilettore, eccetera. Nel 93, quando sono passato l'animatore, ho messo due VHF accoppiate, no, con la U, non so se te lo ricordi come erano fatte, due accoppiate, ma cazzo lavoravo l'addio, perché l'accoppiatore d'antenna l'avevamo preso a Milano, 50 con la coppietta dell'antenna che ce l'ho ancora, e fare un'unica calata e lavorare in volo in normali, poi la 9 elementi per il 271, il 271 della ICOM, e lavorare in 144. Sai che articoli veramente che fai, Fabri? Non ve ne ingannare, cioè quando uno non ha la passione, come gli altri che hanno la grande passione dei DX un po' in generale, sia in HF, in VHF, in UHF, eccetera, ci vuole la passione, perché se no io non ne ho ancora in mansarda. Ho due X-Tech, c'ho la coppietta dell'antenna, posso mettere il tratto che voglio, ma comunque non c'è la passione per fare quel tipo di attività, capito? Ah, sicuramente sì, però questo ragazzo mi diceva, guarda, io non ho mai comprato un radio e ti dico una cosa, non ho mai avuto un amplificatore lineare, ho sempre lavorato con 100 watt di apparecchio, e io spendo la maggior parte dei miei soldi nelle antenne. Io ho fatto tanti di quei collegamenti, infatti di collegamenti con varie nazioni, che molti degli amatori hanno speso 200-300 mila euro tra radio e antenne, se ci sono, quindi tutto sulle antenne. Lui dice, è vero che la potenza ti aiuta, però è più bello quando fai un collegamento con la potenza dell'apparecchio, non avere 10 kW. Allora, è chiaro che se uno ha difficoltà con le antenne o con la posizione si aiuta con la potenza, si aiuta con la potenza, però è anche vero che basta una buona antenna per eliminare tutto ciò che sono i fatti aggiuntivi, quello senza mai dubbi, ma lo dico per l'esperienza fatta, capito? Perché io quando sono venuto qua in HF e in VL1 non ho mai avuto nessun amplificatore. Gli unici amplificatori che io uso, ma per scaziare, per dare un po' più di forza, sono la 27, ma anche lì volendo posso anche tenerli spenti, non c'è problema, non c'è assolutamente nessun problema. È che a volte c'è qualche imbecille che si mette a giocare a provocarti, allora le dimostri che rispetto a te è una moschitta, capito? Però volendo la posizione che ho posso starmi anche tranquillo e sereno. Se ho andato da uno una città che ne approfitta perché è vicino all'altra, quindi ti rompe i coglioni, ma quelle sono persone proprio che non sanno neanche cosa cazzo vuol dire giocare con la radio. Soprattutto non sono appassionati alla radio. Beh, tra, io ti saluto, lo spengo e vado a nanna. Ci sentiamo, grazie della compagnia, ci sentiamo alle prossime, ok? Va bene, quando vuoi siamo qua.